finestra porta del uscire. No, entra, no, entra. Non finestra, no, puoi uscire. Entra, no, entra, no. Questi brilli non sono qui. No. Se ferita, nascondi, nascondi. Apri la porta, vai, vai, uscire. Resta, no. Pronto, taglia.

andiamo. necessario, troppo le dobbiamo. E tu, io credo, poi resina. E mi dici anche tu, tu scrivi le prigioni. 今天的歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎关注北京音乐广播古典有限频道下面的精彩节目。